abbraccio e ti saluto, primo ufficial e plotator di me. Giunto il notaro, e ne morrin non viene. Andiam, mia bella Venere. Ma in quelle luci tenere, qual vecchio nuvoletto? Non è niente, se egli non è presente, compita non mi pare la mia vendetta. Andiamo a segnar l'atto, il tempo affretta. Andiamo! Diletto e l'amabile vista del banchetto. Ho veduto il notaro, sì, l'ho veduto, non v'è più speranza né morino per te. Spezzato il cuore, idol mio, non più rigore fa felice un senator. Voi qui, dottore? Sì, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi, e mi diverto con questi avanzi. Ed io son disperato, fuor di me son io, dottore. O dopo d'essere amato prima di domani, adesso su due pie. Cospetto e matto, recipe l'elisir, e il colpo è fatto. E veramente amato sarò da lei. Da tutte, io te il prometto. Se anticipar l'effetto dell'elisir tu vuoi, bevine tosto un'altra dose. Io parto fra mezz'ora. Caro dottore, una bottiglia ancora. Ben volontiere, mi piace giovare i bisognosi. Hai tu danaro? Ah, non ne ho più. Mio caro, la cosa cambia aspetto. Ammenerai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presso, alla pernice. C'hai tempo un quarto d'ora? Ah!